voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Severino! Artemio! Ciao, Severino. Ma come hai fatto a riconoscermi? Dalla voce. Oh, posso dirti una cosa? Dimmi. Ma lo sai che c'è la faccia da pirla? Sarà, però non sono biondo. Inizio di seconda parte per quanto riguarda questo martedì di Eclettica, che prevede un cambiamento per quanto riguarda gli Incipit. Ve ne state per accorgere, abbiamo finito le parole di Kurt Vonnegut e per tutto il resto della settimana ci terrà compagnia Italo Calvino. Il film rimane sempre quello, probabilmente il film più divertente in assoluto, ovviamente tutto quello che dico è sempre soggettivo, da parte di Renato Pozzetto. Rimando alla playlist per quanto riguarda ulteriori dettagli. E per la musica, per la musica ci siamo appena ascoltati i falsi giapponesi Fujiya e Miyagi, ma soprattutto ci stiamo per ascoltare i danesi Efterklang. Gli ascoltatori storici di Eclettica probabilmente a questo punto hanno avuto un sobbalzo, che sono arrivati non con un album nuovo, per quello ci sarà da aspettare ancora qualche mese, ma così, per aiutarci nell'attesa, gli Efterklang sono usciti con un mini dal quale ci ascoltiamo un estratto.

Questa è casa mia. Entra. Ti piacque, eh? Già un ascolto di Eclettica dalla scorsa settimana, questo brano appena terminato dal titolo To The Sky, la band inglese di Northampton di nome Maps in uscita con l'album d'esordio il 14 di maggio per la Mute Records.

Eclettica, stagione numero 13, settimana numero 29, volume numero 2, indice, The Besnard Lakes, Trans Am, Windmill, Off Montreal, Clear Lake, Fujia e Miyagi, Efterklang, Alf Cousin, Maps, Marsilio Agro e il Duo Maraviglia, Monta, Rafter, il film Il ragazzo di campagna, Gli Incipit, Madre Notte e Mattatoio numero 5 di Kurt Vonnegut, Il barone rampante e Il castello dei destini incrociati di Italo Calvino.